Roma Trastevere, 9 novembre 1966. Caro Eleuterio, la casa che un tempo fu piena dei miei sogni romantici oggi è colma della mia amarezza. Il nostro ultimo bisticcio mi ha delusa, così come mi ha delusa Claudio Villa quando lo vidi di persona. In televisione sembra bassino, da vicino invece sembra che stia seduto anche quando sta in piedi. Soffia un po' di vento, Eleuterio, e io penso che il soffio del vento non è che il phon per le chiome degli alberi. E penso anche che bisogna essere cretini, come te, per bisticciare a causa di un libro di Pirandello, sempre tua. Roma Parioli, 10 novembre 1966. Adorabile sempre mia. La casa che fu piena dei tuoi sogni romantici, che ora è piena della tua amarezza, se dipendesse da me sarebbe anche piena di tritolo. A proposito, tua madre in quale stanza dorme? Sarò certamente un cretino, ma sono pronto a litigare di nuovo per un autore come Pirandello. Che vuoi, leggiadra sempre mia? Ci sono testi che colpiscono. E il Pirandello che mi hai tirato mi ha colpito proprio qui, un centimetro sopra l'arcata sopraccigliare destra. Ciao! Ho scritto. Ieri sera ho visto un interessante documentario sui trichechi. Da quando in qua tua madre si è data alla televisione? Eleuterio. Roma Trastevere, 11 novembre 1966. Caro Eleuterio, gatto. Intendo uno di quei gatti che sembrano zebre, non per le strisce colorate, ma per le strisce delle ossa che si vedono, secchi e brutti. Mia madre è scesa per comprare un pollo. Ha voluto una tua fotografia da mostrare al pollivendolo. Vuole che veda come sono fatti i veri ruspanti. Davanti a me è il nuovo armadio a muro che i miei hanno fatto installare. E penso che in fondo un armadio a muro non è che un alloggio di lusso per tarme ricche. Mi scuso per il Pirandello, ma la Divina Commedia illustrata dal Dorè era troppo in alto. Sempre tua. Roma Parioli, 12 novembre 1966. Cara sempre mia, strano quanto il vuoto assoluto possa riempire una casa. Insomma, mi manchi. Non posso stare senza i quotidiani discorsi a pera ai quali mi hai abituato. Torna, anche perché qualcuno deve avere spostato i mobili della camera da letto. Quando mi corico, ho davanti agli occhi il muro e non la finestra, come sempre. Ciao. Ho scritto. La faccenda del muro è stata risolta. La portinaia ha rimesso i guanciali al posto giusto. Mi coricavo al contrario, Eleuterio. Roma Parioli, 12 novembre 1966. Caro Eleuterio, micione! Dentro la casa, sulla porta della quale è scritto il tuo cognome, ci sono io. Il che vuol dire che non sono più nella casa sulla porta della quale è scritto il cognome di mio padre, che poi sarebbe il mio da ragazza. Ho girato un po' qua e là, ho rivisto il tuo studio, la tua libreria. Su un ripiano c'è sempre l'enciclopedia dell'umorismo. E penso che un umorista, in fondo, non è che un pessimista che scrive il contrario di quello che pensa. Tra poco tornerai e io farò finta di niente. Anche se ricordo perfettamente perché abbiamo litigato qualche giorno fa. Eravamo in soggiorno dopo colazione e... Eleuterio? Scusa se ti disturbo mentre leggi il giornale. Prego. Ma io avrei pensato una cosa. No, hai pensato? Incredibile. E... che cosa sei riuscita a pensare? Avrei pensato di invitare a cena mia madre. Me lo volevo dire, non poteva essere che un pensiero balordo. Che cosa intendi, Eleuterio? Ti dispiace se invito mia madre a cena? No, anzi, Come stiamo, stricnina? Non incominciare, ti prego, eh. Che cosa ti ha fatto quella povera donna? Mi ha fatto genero, ti basta? Oh, insomma, sembra proprio che ti secchi avermi sposata. E se sei pentito, allora... No, no, non sono pentito. Anzi, sotto certi aspetti, il fatto di aver sposato una donna come te, con una madre come la tua, mi ha fatto bene. Dici sul serio? Certo, con una moglie come te, una suocera come tua madre, che altro della vita mi può turbare? La bomba atomica? No, non sono pentito. E perché invitiamo tua madre a cena? Poverina, perché non hai il televisore? Vigliacca, non osa nemmeno affrontare la vita nei suoi lati peggiori. E siccome stasera danno la giara di Pirandello, la mamma desidera vederla. E noi la invitiamo a cena, quando sarebbe stato molto più semplice prestarle il libro. Eccolo là, guarda. Ma il libro non si vede, si legge. Va bene, va bene. E a che ora verrà la festa? Mangeremo alla solita ora. Mamma verrà alle 4. Giusto, è sempre bene arrivare qualche minuto prima. Eleuterio, che cos'è una giara? Hai presente tua madre con le mani sui fianchi? Quella è una giara. Non ho capito bene, ma credo che tu abbia insultato la mamma. No, casomai ho mancato di rispetto alla giara. E che cosa offriremo alla delicata vegliarda? Ho comprato l'agnello. E per noi? Come per noi? Eh sì, l'agnello, per grande che possa essere, sempre agnello è. E basterà appena sfamare la leggiadra settantenne. Puoi insinuare che mia madre mangia da sola un agnello arrosto? Arrosto? Anche crudo, cara. Comunque, se lo arrostisci, facci un contorno di patate. A tua madre piacciono tanto. Sì, lo so. Infatti sono già andata a comprare le patate. Tu? Certo, io. E le hai portate a casa tu? Sì. Ah, non sapevo che riuscissi a trasportare con disinvoltura un quintale di patate. Eleuterio, mia madre non mangia tante patate. È una donna normale. Non direi, il gatto quando la vide l'ultima volta si strappò i baffi per differenziarsi. Eleuterio, se non lo smetti di insultare mia madre, io torno da lei. Allora sbrigati, perché sono già le 3:30. Io... E pensare che la poverina viene soltanto per la giara. Chi è la poverina? Mia madre. Ah sì, la poverina è lei. Permette, signora, io sono l'ammiraglio Nelson. Insomma, basta, me ne vado. Torno da mia madre. Brava, ecco, tieni, portale la giara. La giara? La giara? Io te la... Ai. Ricordo perfettamente il perché del nostro bisticcio. Ma quando rientrerai, farò come se niente fosse successo. Ciao. Ciao, Eleuterio. Ho invitato la mamma a cena, ti dispiace? Sai, stasera replicano la giara.